Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Roma capitale è una grandissima e meravigliosa città. E io sono veramente orgoglioso di poter prestare il mio servizio e la mia responsabilità per la capitale della nostra nazione. Questo è il post era Marino, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci vanno lasciati con le 26 consiglieri che si erano dimessi tutti in blocco venerdì e quindi era finita appunto l'epoca Marino e ricominciamo il lunedì con il prefetto di Milano Tronca, che sapete è il nuovo commissario. Ho dato la notizia in diretta proprio venerdì, il nuovo commissario per Roma sino a prossime elezioni, sarà quindi il commissario reggente, praticamente è stata commissariata a Roma. Stasera parleremo però, Renzi fra l'altro ha detto non voglio nomi di primo livello per fare ripartire la capitale, non ho il chiodo fisso delle elezioni, la priorità assoluta è la città, speriamo che lo sia veramente una volta tanto. E noi invece poi ci concentreremo su questa ulteriore scandalo che riguarda il Vaticano, la seconda fuga di notizie, VatiLeaks, no, viene denominata. La prima, vi ricordate, era quella col corvo, cosiddetto corvo Paolo Gabriele, che era il maggiordomo di Benedetto XVI. Questa volta sono stati arrestati in questa inchiesta VatiLeaks 2 un uomo, un monsignore e una donna, una PR, anche se lei si dice assolutamente innocente. Poi sentiremo qui a Effetto Notte la sua avvocata Giulia Buongiorno, la sua legale. Quindi approfondiremo questa nuova tornata di fuga di notizie, evidentemente, non so, ci sono un po' di spifferi lì in Vaticano, ci sono le notizie così importanti che ogni poco, poi ci sono due libri in uscita che contengono questi documenti riservati. Ci occuperemo poi ovviamente anche delle elezioni in Turchia, non è un paese qualsiasi la Turchia, ha vinto di nuovo il presidente Erdogan. Che cosa comporta questo? C'è stata una grandissima affluenza, ma sono state regolari queste elezioni? Ci sono stati brogli, c'è stato il bavaglio ai vari media, no? Anche di questo parleremo in modo diffuso. E poi c'è un'altra questione sulla quale mi piacerebbe avere le vostre opinioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia gli sms al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666 per gli sms, mentre potete anche scrivere tranquillamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte cosa pensate di Tavecchio, presidente della FIGC, che dopo aver detto un po' di mesi fa delle cose non molto lusinghiere sulle donne e sui neri, adesso c'è ricaduto e ha parlato, diciamo in termini anche lì poco appropriati, di ebrei e di gay. Pensate che Tavecchio, numero uno della FIGC, diciamo ricopra il ruolo con il livello che ci vorrebbe, cioè all'altezza di questo suo ruolo? Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Adesso vi racconto in sintesi, come sempre, la giornata. VatiLeaks 2 per la nuova fuga di notizie, arrestati in Vaticano un monsignore e una PR, lei collabora e si professa innocente. Effetto Notte, tra poco la sua legale Giulia Buongiorno. La legge di stabilità, dubbi dei tecnici sul taglio di Moetasi, Chiamparino lancia l'allarme, regioni a rischio e sotto accusa finisce anche l'8 per 1000. Le elezioni in Turchia, il presidente Erdogan festeggia la schiacciante vittoria, rabbia dei curdi, scontri e proteste, gli osservatori dell'OSCE preoccupati per il bavaglio ai media. L'aereo russo caduto sul Sinai, il Cremlino e Washington non escludono un atto di terrorismo. Migranti, ottobre mese da record, oltre 218.000 hanno attraversato il Mediterraneo e l'Austria introduce l'asilo a tempo. Adozioni potranno arrivare in Italia, bimbi adottati in Congo, dopo oltre 2 anni si riaccendono le speranze. Stati Uniti, per abusi sessuali licenziati 1.000 poliziotti in 6 anni. Sicilia, la rivolta di Bagheria, gli imprenditori denunciano decenni di pizzo, crolla l'omertà. Maltempo in Calabria, interrotti i tratti dell'unica strada della costa ionica, treni a singhiozzo e Del Rio annuncia subito lo stato di emergenza. Le gaffe di Tavecchio, il presidente del CONI Malagò dice che non si può commissariare la FIGC per le frasi del numero uno del calcio italiano e per il MotoGP Valencia annullata la conferenza stampa dei piloti, convocati invece per discutere della situazione dopo Sepang. Quindi partiamo subito dalla nuova fuga di notizie dal Vaticano. Ancora fughe di notizie dal Vaticano e con un nuovo libro in uscita, uno sempre di Gianluigi Nuzzi, Via Crucis, e l'altro di Emiliano Fittipaldi, Avarizia. Tornano dunque a volare i corvi oltre Tevere, con due arresti clamorosi: Monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda, spagnolo, 54 anni, segretario della Prefettura Affari Economici, e Francesca Sciacchi, 33 anni, avvocato e PR in importanti organizzazioni internazionali. Entrambi legati all'Opus Dei ed entrambi membri della disciolta Commissione sull'organizzazione delle strutture economico-amministrative della Santa Sede, istituita dal Papa con il compito di indagare sullo stato delle finanze vaticane. Dovevano fare pulizia, ma in realtà hanno trafugato documenti per passarli all'esterno. Sarebbero loro, infatti, secondo la magistratura vaticana, ad aver fornito materiale riservato per la stesura dei due volumi in libreria il 5 novembre. Sono libri frutto del tradimento della fiducia del Papa, li ha definiti il portavoce della Santa Sede padre Federico Lombardi, e sulla cui uscita si sta valutando se intervenire. Il presule spagnolo ora si trova in carcere, nella stessa cella dove nel 2012 venne rinchiuso Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo papale protagonista del precedente scandalo VatiLeaks. La donna invece è stata rimessa subito in libertà per la collaborazione prestata alle indagini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E Francesca Ciauchi, vi dicevo, si respinge tutte le accuse, dice di essere innocente. Tra poco sentirete a effetto notte la sua legale, l'avvocata Giulia, buongiorno. E dopo la fine dell'esperienza di Marino Sindaco, Roma si prepara al Giubileo. Nella capitale oggi ci sono state una serie di cerimonie e ha cominciato lì, come l'avete sentito all'inizio, il suo lavoro il commissario Tronca. Dopo l'insediamento in Campidoglio, nella sua prima giornata romana ha reso omaggio ad alcuni dei luoghi simbolo della capitale, dalle Fosse Ardeatine a San Lorenzo, passando per l'Altare della Patria e Porta San Paolo. Una giornata fitta di appuntamenti istituzionali, quella del neocommissario Tronca, che si è detto orgoglioso per l'incarico ricevuto. Roma capitale è una grandissima e meravigliosa città. Sono veramente orgoglioso di poter prestare il mio servizio, la mia responsabilità per la capitale della nostra nazione. Nei prossimi giorni l'ex prefetto di Milano dovrà incontrare anche il presidente del Consiglio Renzi. Risolta la vicenda Marino da Palazzo Chigi, è atteso lo sblocco di altri 300 milioni per il Giubileo, ma anche la presentazione del cosiddetto Dream Team, che dovrà affiancare Tronca fino alle elezioni in primavera. Sarà una squadra fatta da nomi di primo livello, necessaria per far ripartire la città, ha assicurato il premier in un'anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Prima viene Roma, poi riorganizzeremo il partito che è dilaniato dalle correnti interne e alla fine sceglieremo il candidato, ha aggiunto Renzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci sulla legge di stabilità. Arrivano le osservazioni, le critiche sia da parte dei tecnici del Parlamento sia da parte delle parti sociali. Allarme arriva anche dalle regioni. La manovra mette a rischio la sopravvivenza delle regioni. A lanciare l'allarme il presidente della Conferenza Regioni e governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, che chiede un incontro urgente con il governo sui tagli 2017-2019. Critiche alla legge di stabilità anche dai tecnici di Camera e Senato. L'eliminazione della TASI, delle prime case, dell'IMU per i terreni agricoli e per gli imbullonati limita la possibilità di manovra dei comuni. Nell'audizione al Senato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, spiega poi che la manovra presenta criticità nel reperimento delle risorse e nella spending review. Grandi assenti sono ricerca, innovazione e mezzogiorno. Poi Squinzi lancia un appello alla politica. Signori della politica, dateci un paese semplice e un paese normale. Credo che noi imprenditori sicuramente torneremo a investire più di quello che abbiamo fatto in questi anni. Per i sindacati invece la legge di stabilità non aiuta le classi meno agiate. Il segretario della CGIL, Susanna Camusso. La manovra c'ha un chiaro orizzonte per la scelta sulla TASI, che essendo generalizzata insieme all'IMU ha un effetto ovviamente di dare di più a chi ha maggiore ricchezza patrimoniale invece che guardare alla fascia bassa della popolazione. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E la Corte dei Conti punta il dito anche sull'8 per mille, soprattutto quello destinato alla Chiesa. Dice: in un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali, lo Stato non ha rivisto il sistema dell'8 per mille, che diviene sempre più gravoso. costoso per l'erario, dice la Corte dei Conti, sottolineando che le risorse per la Chiesa sono salite dai 200 milioni del 1990 a oltre un miliardo nel 2014. Adesso spostiamoci sulle notizie dall'estero. Con le elezioni in Turchia, il presidente Erdogan ha festeggiato la schiacciante vittoria, rabbia dei curdi, scontri e proteste che continuano soprattutto nel sud del paese. Gli osservatori dell'OSCE sono preoccupati per il bavaglio ai media che c'è stato, che quindi ha impedito la campagna elettorale vera e propria agli altri candidati. Così Marco Barbonaglia da Istanbul. Ciao Marco. Ciao Roberta, sì, il risultato di ieri è stato una grande, un'enorme sorpresa. I sondaggi non davano certo Erdogan così avanti, si parlava al massimo di un lieve miglioramento rispetto a giugno, invece il presidente ha letteralmente trionfato, sfiorando il 50% dei consensi. Ha ottenuto ben più dei 276 seggi che gli servivano per formare un altro governo monocolore, cosa che peraltro gli è sempre riuscita tranne alle elezioni dello scorso giugno, quando si era fermato al 41% circa. Non ha i 330 seggi per cambiare la Costituzione in senso presidenzialista, ma stando così le cose il progetto sembra soltanto rimandato, probabilmente neppure di molto. Perché quella è la sua intenzione, no? Però c'è stata, bisogna dire, una grossa affluenza, vero Marco? C'è stata una grossa affluenza che ha sfiorato in Turchia, guardando solo la Turchia, nei seggi esteri ha superato l'87%, quindi è un record in Turchia. Però non c'è dubbio che dopo queste elezioni, nelle quali la Turchia si ritrova con molti sconfitti e un solo vincitore, i turchi, di fronte a una situazione complicatissima, la lira che è crollata, gli attentati di Suruç, quello terribile di Ankara, l'ISIS alle porte, la guerra con il PKK, hanno scelto l'uomo forte. Ma in parte questa è anche colpa di alcuni dei leader dell'opposizione, elitari e anacronistici, incapaci di parlare la stessa lingua del popolo. Il giorno dopo le passate elezioni avevano avuto una grande occasione, in effetti, ma non hanno nemmeno provato a fare una vera alleanza contro un nemico comune, con l'eccezione del partito filo curdo, che ha pagato problematiche che non sono imputabili a loro. Gli altri partiti non hanno agito in maniera particolarmente astuta, in particolare il partito nazionalista, che ha negato ogni possibilità di alleanza con chiunque hanno preso, è stato severamente punito questa volta al voto. Grazie Marco Barbonaglia. Qualcuno scrive: se i turchi preferiscono suicidarsi così come vogliono, siano liberi. Adesso parliamo dei migranti di questo mese record, che è stato ottobre, perché sono oltre 218.000 i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo in questo mese, lo affermano quello che è appena passato, gli ultimi dati dell'ONU, precisando che si tratta appunto di un numero mensile record. E intanto l'Austria introduce l'asilo a tempo per contrastare il flusso dei migranti. Cosa fa la grossa coalizione austriaca? Ha deciso di inasprire le regole del diritto d'asilo e ha trovato l'accordo per garantire, a partire dal 15 novembre, un asilo soltanto per 3 anni. Poi automaticamente decade e poi si valuta se prolungarlo. Stati Uniti, nel giro di 6 anni circa 1.000 agenti di polizia sono stati licenziati per essersi macchiati di crimini a sfondo sessuale. Negli Stati Uniti una nuova scure quindi si abbatte sulla polizia americana dopo le accuse di violenza e discriminazione razziale che da mesi scatenano proteste in tutto il paese. Gli agenti hanno perso il distintivo in seguito a un'indagine a livello federale. E adesso di nuovo in Italia, in Sicilia, Bagheria non è cosa loro, così ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Renzi. Dopo 20 anni infatti c'è la rivolta degli imprenditori che pagavano il pizzo. È un pezzo di Sicilia che si rivolta contro la sua storia, contro anni di pizzo e minacce. È un'altra crepa nel cuore del potere mafioso ed è il segno di un cambiamento radicale, perché è in uno dei feudi di Cosa Nostra, è nella bagheria di Bernardo Provenzano che 36 commercianti e imprenditori si sono ribellati alla più resistente regola dei boss, le estorsioni, e hanno fatto arrestare 22 picciotti. Prima in 3, spontaneamente, si sono presentati dai carabinieri, poi gli altri sono stati convocati, ma stavolta hanno confermato quanto un pentito stava già raccontando e hanno ammesso di aver pagato. Ci sono 30 anni di mafia nei loro verbali, storie di vecchi padrini e di nuovi imprenditori costretti pure a vendere la villa per mettersi a posto col clan. C'è chi per anni ha mantenuto la famiglia del boss in carcere, poi lui stesso, finendo così sul lastrico. Fino ad ora, nella baria di Tornatore, i boss erano stati sereni. Tranquillo, quello i 1.000 me li porta, si dicono nelle intercettazioni, ma i cambiamenti possono avvenire anche in questo pezzo di Sicilia, che da una parte trema per i libri mastri delle stecche e per i cataclismi che gli arresti nel mondo del potere palermitano potrebbero innescare, dall'altra rivela anche di sapersi scrollare di dosso il gioco antico del pizzo e resta l'isola plurale di sempre. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 69 bambini congolesi adottati da famiglie straniere potranno raggiungere i loro genitori, annunciarlo è stato il ministro della giustizia del Congo, e di questi tutti questi bambini 10 arriveranno in Italia, ma sono ancora tante le famiglie che aspettano. Quindi c'è stato un primo sblocco, un primo spiraglio, però ancora bisogna che ne arrivino altre, bisogna capire anche a quali famiglie poi saranno assegnate. In maltempo il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio oggi a Reggio Calabria ha promesso che entro 10 giorni sarà ripristinata la linea ferroviaria con tutti i danni che ci sono stati a causa del maltempo. Lavoreremo, ha assicurato, 24 ore al giorno. E poi per chiudere le gaffe di Tavecchio, il presidente del CONI Malagò dice che non si può commissariare la FIGC per le frasi del numero uno del calcio italiano che, oltre, vi dicevo, aver parlato in passato in toni poco opportuni di donne e di neri, c'è ricaduto parlando di ebrei e di gay. La domanda che vi pongo questa sera è all'altezza Tavecchio di essere il numero uno della Federazione Calcio Italiana? Vedo già i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, scrivete anche al 349 238 6666, il numero per gli sms. Leggiamo qualcuno sulla pagina Facebook. Stefano lapidariamente scrive no, quindi non è all'altezza. Lorenzo: si rappresenta degnamente la categoria attraverso Tavecchio. Adriana: anche questo fa curriculum, come apre bocca c'è lo strascico di idioti. Floriano: anche se non è, sono tutti manipolati. Gilles scrive: il mondo italiano del calcio notoriamente pieno di raffinati intellettuali, forse se lo merita uno come quello. A tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. L'ultima notizia arrivata poi di calcio, Chievo-Sampdoria 1-1 in questo posticipo. Tra poco parleremo del nuovo, la nuova bufera sul Vaticano, di questo nuovo VatiLeaks, quindi ulteriore fuga di notizie, la seconda puntata praticamente. Ne parleremo con, tra poco sentirete la posizione dell'avvocata Giulia Bongiorno, legale di uno dei due arrestati, e poi ci sarà anche il vaticanista del Sole 24 Ore. Prima però vi ricordo le notizie più importanti, anzi volevo leggere ancora uno dei vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666 su Tavecchio, sulle sue gaffe. Riccardo scrive che non è all'altezza, per questo lo hanno tenuto su quello scranno. Alberto scrive: degno rappresentante del paese pagliaccio che tutto il mondo prende per il dietro. Insomma, le notizie. VatiLeaks 2 per la nuova fuga di notizie. Arrestato in Vaticano un monsignore e una PR, le collabora e si professa innocente. La legge di stabilità, dubbi dei tecnici sul taglio di IMU e TASI. Chiamparino lancia l'allarme, regioni a rischio, e sotto accusa finisce anche l'8 per 1000. Le elezioni in Turchia, il presidente Erdogan festeggia la schiacciante vittoria, rabbia dei curdi, gli osservatori dell'OSCE preoccupati per il bavaglio ai media. L'aereo russo caduto sul Sinai, il Cremlino e Washington non escludono un atto di terrorismo. E poi Stati Uniti per abusi sessuali licenziati 1000 poliziotti in 6 anni, maltempo in Calabria, interrotti tratti dell'unica strada della costa ionica, treni a singhiozzo, Del Rio annuncia subito lo stato d'emergenza. E poi la gaffe di Tavecchio, il presidente del CONI Malagò dice: non si può commissariare la FIGC per le frasi del numero uno del calcio italiano. Adesso parliamo del VatiLeaks 2, appunto, ovvero la seconda fuga di notizie di documenti riservati del Vaticano. Vi ricordate, sono passati 3 anni, no, da quando si parlava del corvo in Vaticano, che poi era questo maggiordomo, come nei gialli più classici e anche banali, Paolo Gabriele, era maggiordomo di Benedetto XVI, che aveva trafugato dei documenti riservati e li aveva dati poi a dei giornalisti. Era stato poi processato, condannato, scusate, e poi c'era stata la grazia. Quello era VatiLeaks 1, il ciclone che investì il pontificato di Benedetto XVI, e qualcuno dice che fu per quello anche che forse si dimise. Dopodiché che cosa è successo? A parte, allora si disse che il maggiordomo era semplicemente un pesce piccolo, c'era dietro ben altro, ben altri erano i colpevoli, però poi non vennero fuori, insomma, almeno non vennero denunciati. Però evidentemente la voglia di fare la spia in Vaticano è sempre troppo forte, perché ancora è successo che addirittura siano state forse registrate delle parole del Papa nelle riunioni riservate, oltre anche a mandare fuori degli altri documenti riservati. Ed ecco l'arresto, reso pubblico oggi, di Monsignor Lucio Angel Valleio Balda e di Francesca Ciauchi, già facente parte della COSEA, cioè della Commissione di Studio sulle Attività Economiche e Amministrative del Vaticano, costituite dal Papa. L'accusa di aver divulgato le informazioni legate all'uscita di 2 libri, che dovrebbero uscire il prossimo 5 novembre, quindi a giorni, di Fittipaldi e Nuzzi, dei 2 giornalisti. Quindi il Vaticano cerca di giocare un pochino di anticipo su questi libri che contengono questi documenti riservati. Però prima di sentire Carlo Marroni, che saluto, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Pronto Carlo? Sì, eccomi, ciao Roberta, ti sento. Pensavo fossi secretato anche tu, no? No, sono ancora in chiaro. Senti Carlo, vorrei far sentire a te gli ascoltatori, l'ho sentita poco fa, poco prima dell'inizio della trasmissione, l'avvocata Giulia Buongiorno, che è legale della donna, un uomo e una donna sono stati arrestati, che è Francesca Ciauchi, che in realtà è stata rilasciata perché, dicevano le agenzie, ha collaborato. Però sentiamo dall'avvocata Buongiorno qual è la posizione di Francesca Ciauchi. Allo Stato la Ciauchi ovviamente fa parte delle indagini, ma la sua collaborazione non è da intendersi nel senso che c'è un'ammissione di responsabilità, l'esatto contrario, ha ricostruito in maniera puntuale i fatti e si è messa a disposizione proprio della gendarmeria per aiutarli a ricostruire i fatti, quindi non c'è un'ammissione di addebiti, anzi c'è una posizione che credo si stia delineando come di estraneità rispetto alle incolpazioni. E come mai, avvocata Buongiorno, è venuto fuori il suo nome? Addirittura è stata arrestata insieme a Monsignor Valerio Balda in questa inchiesta, poi rilasciata per la collaborazione. Che ovviamente qualcuno l'ha chiamata in causa, ma non dobbiamo pensare che sia stato un arresto un po' come lo intendiamo noi, cioè un'ordinanza di custodia cautelare o che è stata messa in una cella o in carcere. È stata trattenuta il tempo di queste dichiarazioni e dopo averle reso, proprio perché credo sia stata apprezzata anche la natura di queste dichiarazioni, è stata immediatamente rilasciata. C'è un documento che attesta che non ci sono delle esigenze cautelari. Continuerà comunque a essere sentita perché l'indagine deve continuare e sta offrendo una serie di contributi. È chiaro che ci sono ancora indagini in corso, questi accertamenti vanno avanti, ma in questo momento per un'esigenza proprio di tutela del segreto investigativo non posso ricostruirvi in termini esatti come sono andate le cose. Però ecco, una collaborazione non da intendersi come ammissione di addebiti. Infatti, poi leggendo appunto le agenzie, no, sulla sua collaborazione, il fatto che fosse stata rilasciata per questo, poteva intendersi in questo modo. Comunque è serena la sua assistita? Ciao, chi in questo momento? È serena, l'ho vista proprio oggi pomeriggio al mio studio. Adesso ovviamente ci rivedremo nei prossimi giorni, ma è serena proprio perché sta offrendo un contributo e crede di poterne uscire, ora non dico in pochi giorni, però insomma in poche settimane. Quindi sarebbe stato un equivoco visto che c'è parte di questa commissione? No, c'è stata una chiamata in causa, no, come spesso avviene c'è stata una chiamata in causa e si doveva verificare la correttezza di quello che era stato detto, cioè è corretto che se qualcuno ti chiama in causa la gendarmeria approfondisca. Nulla deve essere lasciato di intentato, però appunto quando è stata chiamata lei è andata spontaneamente, ha fornito in modo dettagliato una serie di informazioni e credo che questo suo rilascio insomma ne sia un po' dimostrazione. Grazie avvocata Giulia, buongiorno intanto. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Carlo Marroni, che cosa c'è, che cosa ci sarà in questi documenti? A parte che appunto tra pochi giorni usciranno questi libri di Fittipaldi e Nuzzi, c'è questo piacere, questa vocazione all'interno del Vaticano di far uscire documenti segreti, com'è? Allora, anzitutto l'avvocato Buongiorno ovviamente fa il suo lavoro, certo. E quindi con massimo rispetto, però ecco, diciamo dovremmo vedere questa cosa qua, io non ho carte che dimostrino che la sua assistita, però insomma ecco, diciamo che facciamo questo mestiere da qualche tempo e quindi qualcuno abbiamo incontrato e conosciuto nel tempo. Tuttavia partiamo invece dai fatti conosciuti. I fatti conosciuti è che è un fatto clamoroso perché come dire, al di là del fatto che hanno passato carte ai giornalisti, io faccio giornalista anch'io, cerco carte, quindi nel senso non è che diciamo è il mestiere dei giornalisti questo, il nostro mestiere. Però mette in luce uno spaccato, diciamo così, che si pensava in qualche modo fosse un pochino andato in soffitta. Invece tra il sinodo, che ha visto Corvi anche lì in altro, diciamo, in azione in altro modo, la vicenda della notizia del tumore al cervello del Papa, che ancora resta senza prova alcuna, massimo rispetto per chi l'ha scritta, però tuttavia è senza prove, e quindi insomma la prova aspetta chi lancia, diciamo, il fatto, e quindi ecco, anche in questo caso, diciamo così, è evidente che questi documenti sono usciti perché sennò la gendarmeria non, come dire, non si muoveva, anche perché un fatto così clamoroso deve un arresto, cioè dipende un monsignore metterlo in una cella, anche se non stiamo parlando appunto, come diceva, di una delle prigioni, non era Alcatraz, diciamo, è una stanzetta, diciamo così, in un palazzo, e tuttavia mette in luce come ci sia ancora dentro il Vaticano, da parte della Curia, un'azione, diciamo, di sabotaggio, anche se chi dice che queste persone collaboravano felicemente con il Papa di fatto è un sabotaggio, perché getta discredito generale su tutta la vicenda. Quindi un po' come nella vicenda precedente, scusami Carlo Marroni, che evidentemente era un pesce piccolino il maggiordomo, c'era in realtà le guerre intestine all'interno. Sono due cose, hai detto giustamente. Allora, il maggiordomo aveva accesso a tutte le scrivanie sensibili, è stato condannato solo lui. Permettimi di avere qualche dubbio che 92 scatoloni di materiale potessero essere fatti da una sola persona, che così li accumula come se fossero i giocattoli del figlio cresciuto. E con quel tipo di ruolo, poi, insomma. Con quel tipo di ruolo. La persona era, come noto, molto suggestionabile e anche un po' ingenua, però aveva accumulato un tale. Per cui l'idea che ci fosse una complicità mai emersa, diciamo, resta ancora viva. Però, tuttavia, c'è stato un processo e i processi, diciamo così, si rispettano. Dall'altra parte, diciamo così, quel quadro lì avveniva in un quadro di guerre interne in vista della successione al Papa. In questo caso, secondo me, se leghiamo tutte le vicende con un filo rosso che le tiene un po' insieme, è molto diverso, perché qui c'è un attacco frontale giocato con i mezzi moderni, non pensiamo ai tempi dei Borgia che si mette il veleno, diciamo, nel vino, però si gioca con i media e con altri mezzi, e qui, diciamo così, l'attacco è al Papa, a questo Papa che invece è un uomo, diciamo, possiamo dire solo al comando, perché è il saldo alla sua guida, non è come il Papa precedente che era debole, oggettivamente debole, ma non lo dico io, erano i fatti che lo dimostra. Quindi, diciamo così, quello che viene fuori è che tutti dicevano che quel Papa precedente è stato vittima, diciamo, dei media, del mondo ostile, e che questo Papa invece ha, diciamo così, la benevolenza del mondo. Secondo me questo Papa se la deve proprio, al contrario, vedere con un mondo che è tendenzialmente quello interno, non solo di Curia ma anche così delle gerarchie un po' sparse nel mondo, e che gli fa la guerra. Questo è un fatto, diciamo. Ora poi, al di là dei libri, dei colleghi che hanno scritto i libri, che hanno la mia, come dire, tutto il mio rispetto e anzi ammirazione, anche un po' l'invidia, anche forse invidia, perché sono stati bravi, però di fatto poi il protagonista, il collega Nuzzi, è lo stesso di Vatilix 1, quindi c'è un legame un po' tra i due casi, insomma. Poi ripeto, massimo rispetto a chi dà notizie, però ecco, questo è quello che viene fuori. Mi interessa quello che accade dentro il Vaticano più che quello che scrivono i giornali fuori, e quello che accade è questo fatto qua, cioè ci sono delle persone che avrebbero, un monsignore e un consulente, diffuso documenti riservati, che poi secondo me non sono neanche documenti, come dire, clamorosi. Di cosa pare che dovrebbero riguardare il settore delle finanze e della riforma economica. Sì, la riforma economica è avvenuta in un periodo che è durato circa un anno e mezzo, diciamo. Cioè di mezzo lo IOR, queste cose qui. Lo IOR era fuori da questa commissione, era tutto extra IOR, lo IOR aveva una sua commissione ad hoc, per cui queste persone avevano accesso a documenti che i vari ministeri fornivano. Chiamavano il ministero e dice: datemi i documenti, quanto spendete, qual è il valore, cioè, i dati economici, diciamo, dei ministeri economici. Quindi, diciamo così, però venivano fuori magari dei casi di uso non proprio, come di commendevole del denaro, eccetera. Queste saranno quelle cose che venivano fuori, che verranno fuori. Alcune le conosco anche perché giravano da tempo, quindi che riguardano, per esempio, uno il ministero che fa il decreto ai santi. Ecco, lì c'era stato un problema, ecco, questo so che sarà in uno dei due libri. Quindi queste erano cose anche in parte note che giravano. Quindi secondo me ci saranno cose importanti, forse non clamorose, però lo vedremo quando esce il libro. Qui anche io sono molto, però ripeto, curioso. Quello che conta è lo spaccato che arriva da dentro, che è uno spaccato ancora parecchio, parecchio da corte, diciamo, dei veleni, non quelli proprio che si sorbiscono via bicchiere, però insomma possono essere anche altrettanto dannosi. Un mondo così, questo Papa, ecco, in maniera veramente forte. Poi Carlo, prima di lasciarci, c'è forse un complottista, questo ascoltatore che scrive al 349-238-6666, dice: prova a dirlo che uno dei portavoce dei Corvi è il direttore del Carlino La Nazione, la cui proprietà è voi ben nota. Allora, no, non lo so, perché il direttore del Carlino risponde per se stesso, io non rispondo per il direttore del Carlino, come te credo, quindi no, appunto, no, insomma, lui ha scritto una sua notizia, se ne è presa la responsabilità, è stata smentita, non credo nessuno l'abbia denunciato. Del tumore al cervello, no? Del tumore al cervello, non credo ci siano state denunce, perché poi anche questi casi, se vanno in aula, in aula di tribunale, possono avere, diciamo così, anche una loro conclusione. se nessuno denuncia, lasciali così, ma si ti ricorderai il caso Boffo del 2009. No, Boffo non denunciò mai il giornale e non andò mai in tribunale il caso. Poi ognuno fa le sue scelte. Si è risolto in altro modo, per dire, anche lì riconobbe il giornale che non era giusto quel documento. E gli cambiò posizione, detto cambiò posizione ruolo, e gli si chiuse. Che era un'altra... Però quella è una vicenda che, ripeto, quella del Carlino e del QM, anzi, è una storia, come dire, una notizia enorme, non provata e smentita, questo è il fatto. Comunque, insomma, vedremo nei prossimi giorni che cos'altro uscirà. Ci sarà un processo, sicuramente ci sarà un processo e vedremo. Grazie Carlo Marroni, intanto. A te, Roberta, ciao. Ciao Carlo, ciao. Prima di questa breve pausa di ricreazione, come sempre a questo punto, volevo guardare qualche altro vostro messaggio invece sulla vicenda Tavecchio e le sue gaffe inanellate una dopo l'altra. E dice un ascoltatore, allora, pagina Facebook di Effetto Notte, mi sposto sul 349-238-6666. Gianni dice basta con questi vecchi che stanno attaccati alla poltrona a tutti i costi, in pensione a badare ai nipoti. Un altro ascoltatore o ascoltatrice, mettete un nome qualsiasi, anche d'arte, che ne so, che vi devo dire, dice metteteci Luxu al posto di Tavecchio. E poi ancora un altro messaggio, ma fammi capire cosa c'entrano gli ebrei con il calcio, i gay, poi in quanto ai neri ce ne sono un botto in tutte le squadre. Allora bisogna dirlo a Tavecchio tra poco. Logisticamente, Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo di nuovo insieme, continuiamo a essere insieme, Roberto Giordano con voi, voi con i vostri messaggi, il vostro ascolto, messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete veramente aderire senza indugio giorno e notte, e poi ci sono gli sms al 349-238-6666. A proposito sempre delle gaffe di Tavecchio, di cui parleremo più tardi, dice Angie, scrive Angie, presidente calcio in assoluta armonia col mondo di sottocultura e barbarie che rappresenta. E poi ringrazio anche le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous Portico di Caserta, il loro messaggio, e ancora vari altri messaggi su Tavecchio che vi leggerò poi più tardi. Vi ricordo però, visto che ci siamo lasciati per qualche minuto, le notizie più importanti della giornata. Due arresti in Vaticano per la fuga di notizie riservate, ne abbiamo appena parlato con l'avvocata Giulia Bongiorno, che è legale di Francesca Ciauchi, uno dei due arrestati, l'altro è Monsignor Balda, e con abbiamo parlato con il vaticanista del Sole 24 Ore. Tensioni sulla manovra, Renzi convoca le regioni per mercoledì e dice ora ci divertiamo. Sempre per quanto riguarda Roma, il presidente del Consiglio PD di Laniato dice ora ricucciamo. Sinai, Cremlino e Washington, a proposito dell'aereo caduto sul Sinai, non escludono la pista terroristica. Maltempo in Calabria, interrotti tratti dell'unica strada della costa ionica, treni a singhiozzo, ma il ministro dei trasporti del Rio assicura che lavoreranno 24 ore su 24 e subito è dichiarato lo stato di emergenza. Rivolta bagheria in Sicilia, imprenditori denunciano decenni di pizzo, dopo 20 anni crolla l'omertà, intanto 22 provvedimenti contro la mafia del mandamento. E arriva l'etichetta dell'Unione Europea sui prodotti delle colonie della Cisgiordania, delle colonie israeliane in Cisgiordania, e Israele dice questo incoraggia il boicottaggio. E poi una notizia che riguarda Facebook, se vi può interessare, apre all'uso dei pseudonimi. Pseudonimi sono contenti, vittoria dei trans e dei gay, che qualcuno che non voleva mettere insomma il proprio nome. Ora invece con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. È da Istanbul, tra l'altro, appunto, perché parliamo di elezioni politiche anticipate in Turchia. Il partito del presidente Erdogan ha vinto, stravinto, anzi, Erdogan ha detto anche il sultano. La KP, il suo partito, ottiene la maggioranza assoluta, 316 seggi su 550, 15 in meno di quelli necessari per cambiare la Costituzione in chiave presidenzialistica, però addirittura 40 in più di quelli necessari per governare in autonomia. Quindi governa in autonomia, è vero che sono entrati in Parlamento per la prima volta i filocurdi dell'HDP, però grande affluenza, no? Tra l'altro, Alberto Negri, c'è stata una grande affluenza, sì, in gente che ha votato. Un attimo, per la verità i curdi, il partito filocurdo era già entrato nelle elezioni del 7 giugno scorso, aveva sì, avuto già fa. 80 deputati. Sì. Di più però di adesso, mi sembra, no? Avesse avuto... Molto di più, questa volta ha superato di poco la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento del 10%. Però l'OSCE, il capo degli osservatori dell'OSCE, dice sì, c'è stata grande affluenza, c'erano delle alternative forti politiche a Erdogan, però il bavaglio imposto ai media e le violenze, soprattutto nel sud-est del paese, hanno ostacolato la campagna dei candidati e questo desta preoccupazioni. Quindi che tipo di elezioni sono state? Sono state regolari? Ci sono stati brogli? È vero che c'è sempre il sospetto, no, in certi paesi? Ma dunque, innanzitutto queste elezioni sono state elezioni che si sono giocate sulla paura, sul timore. Sapete bene, questo paese ha avuto recentemente dei fatti sanguinosi come l'attentato di Ankara del 10 ottobre scorso, no? Sono morte oltre 100 persone, è ripresa nel luglio di quest'anno la guerriglia contro il PKK. C'è una forte destabilizzazione ai confini del paese con la Siria, che come sapete è travolta dalla guerra. Quindi potete immaginare che proprio questo clima di tensione in qualche modo abbia favorito Erdogan, che si propone come sempre come l'uomo dell'ordine, come l'uomo in grado di tenere in pugno il paese. Certamente, come hanno sottolineato gli osservatori dell'OSCE, queste elezioni, se sono state regolari dal punto di vista formale, sono però state segnate da molta violenza, da molte intimidazioni, soprattutto nell'Anatolia del sud-est del paese. Io sono stato a Diyarbakir qualche giorno fa e ho visto addirittura il centro della città bombardato, una moschea del 500 che è stata bombardata insieme a un quartiere, quello di Sur, che si era rivoltato contro il governo di Davutoğlu e della KP, come molte altre città del Kurdistan che ho visto, dove ci sono stati episodi di enorme violenza, con morti, con violenze appunto diffuse. Quindi questo fa capire che è chiaro che in una parte del paese questo voto non è stato effettivamente molto, come dire, corretto, è stato molto condizionato come tutta la campagna elettorale, perché Erdogan ha messo il museruolo alla stampa dell'opposizione, anche la Casa Bianca se ne è lamentata, però c'è un però, anzi ce ne sono due. Il primo è che l'Unione Europea ha già detto che collaborerà con il futuro governo della KP, perché gli fa comodo all'Europa comunque avere un uomo che qua in qualche modo accoglie 2 milioni di profughi siriani. C'è di mezzo l'immigrazione, no? Esattamente, che è l'argomento che fa più gola agli europei, il resto forse la democrazia un po' meno. E poi c'è un altro però molto forte, che è un po' l'incomprensione che c'è sempre da parte degli occidentali di questo mondo, che io mi permetto di dire conosco un po' bene perché percorro da più di 35 anni, cioè di non capire che in questi paesi comunque l'uomo forte è colui che sa garantire la sicurezza, che in qualche modo ha garantito anche in questi anni un certo sviluppo economico, è chiaro che continua a mantenere un forte consenso, no? Ricordiamoci che questo partito islamico, la KP ed Erdogan, hanno dato una rappresentanza politica a gran parte di un paese, quel ceto piccolo, medio borghese, musulmano, conservatore, che per tanti decenni della Repubblica Islamica era stato tenuto fuori dalle stanze del potere. Insomma, è difficile per questa parte della Turchia popolare voltare le spalle a Erdogan. Senti, Alberto Negri, però per quanto riguarda l'ingresso tanto dibattuto, sono anni che si parla dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, no? Le posizioni di Erdogan, quello che succede, i disordini, poi viene chiamato il sultano, tra l'altro che tipo di Islam è il suo? Mi pare che col tempo si sia un po' irrigidito, no? Ma innanzitutto difficile comunque cominciare in una trasmissione radiofonica di settare su un Islam più o meno radicale. Cerchiamo di vedere poi i fatti dicono che lui ha, come dicevo prima, ha dato voce e rappresentanza politica a questo ceto piccolo medio borghese conservatore che è gran parte dell'Anatolia, no? Però ha fatto anche delle politiche anche abbastanza contraddittorie. Una di queste è stato che per anni da questo confine Turchia, Siria, sono pensati migliaia di jihadisti che dovevano andare a combattere contro Bashar Assad e che poi si sono anche arruolati nel califfato. E in qualche modo qualche cambialina da pagare il signor Erdogan ce l'ha nei confronti dei jihadisti, perché chiaramente aveva promesso di buttare giù Bashar Assad e forse in cambio di avere qualche pezzo della Siria, che so, Mosul o Aleppo. Insomma, anche Erdogan dovrà pagare qualche prezzo all'ascesa e alla diffusione del califfato e dei jihadisti, a cui lui ha dato più o meno una mano, un aiuto. Ecco. E adesso invece cominciano a esserci i conti da regolare, e i conti da regolare diventano sanguinosi. È per questo che la Turchia oggi è un punto chiave strategico e assai sensibile di tutto il quadro della politica internazionale. Questo sì, ma proprio per chiudere, Alberto Negri, il possibile ingresso in Unione Europea mi pare che se ne parli molto meno ultimamente, o sono io che magari sono distratta? Ma in realtà qui un paio di settimane fa è venuto il cancelliere tedesco, la signora Angela Merkel, a promettere a parte i soldi per accogliere i profughi, che evidentemente sono uno di quei prezzi che tenderanno a salire, peraltro, no? Più forte Erdogan, più Erdogan ha un margine di manovra, ovvio, no? Roberto, di contrattazione. Certo. Quanto poi alla signora Merkel, ha promesso anche qui Erdogan la riapertura dei capitoli del negoziato di adesione all'Europa, che in qualche modo riaprono un po' la partita della Turchia in Europa. Io non credo che ci sarà un ingresso imminente, non credo proprio. Ma non credo proprio, soprattutto anche perché l'Europa da una parte è chiaramente costretta a collaborare con Erdogan e anzi ha cercato la collaborazione di Erdogan, dall'altra parte però questo governo non sembra ancora rispettare i criteri democratici di libertà di stampa, dell'opposizione, civili che richiede l'Europa. È abbastanza palese, ma certo, anche se poi parliamoci chiaro, la vittoria di Erdogan che cos'ha tanto diverso da quelle dei partiti populisti che abbiamo visto in Europa? Erdogan è un populista, è vero che è un islamico, ma queste elezioni le ha vinte pigiando sul pedale dell'ipernazionalismo, cioè del fatto di mantenere intatti i confini della Turchia, di mantenere il Paese unito, insomma di in qualche modo le stesse tematiche populistiche che abbiamo visto anche in altri paesi europei, appunto dalla Polonia all'Ungheria e anche adesso nella civilissima e coltissima Francia, no? Bene, anche Erdogan in fondo è in questo solco. In questo solco purtroppo sta scivolando anche la stessa Europa. Grazie Alberto Negri. Ciao Alberto. Grazie a voi. Buona continuazione lì. Ciao. Buona continuazione lì a Istanbul. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, tra pochissimo lo spazio europeo, parleremo poi di Tavecchio. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Scrive questa ascoltatrice, ascoltatore, vediamo se c'è la firma, Ulisse. Ecco, Tavecchio dice potrà essere un gaffer, ma comunque un buon dirigente di Federazione Calcio, a differenza della precedente gaffe. In questo caso si tratta di opinioni espresse in privato. Adesso vi ricordo le notizie più importanti molto velocemente e poi procediamo. Vitilix 2 per la nuova fuga di notizie, arrestati in Vaticano un monsignore e una PR, lei collabora e si professa innocente, avete sentito l'avvocata Giulia Buongiorno, sua legale. La legge di stabilità, dubbi dei tecnici sul taglio di Moettasi, Chiamparino lancia l'allarme per le regioni, cioè le regioni sono a rischio e sotto accusa finisce anche l'8 per 1000. Le elezioni in Turchia di cui abbiamo appena parlato, col presidente Erdogan che festeggia la vittoria, e poi migranti, ottobre mese da record, oltre 218.000 hanno attraversato il Mediterraneo. Sicilia, la rivolta di Bagheria, gli imprenditori denunciano decenni di pizzo e crolla l'omertà. Il maltempo in Calabria con Del Rio che dice subito lo stato di emergenza e poi le gaffe di Tavecchio di cui parleremo tra poco. Europa 24 notte. Non non è la prima volta che la Commissione europea quantifica il gap, la differenza di stipendio tra uomini e donne, a favore naturalmente degli uomini, ed è come se queste ultime lavorassero gratis gli ultimi due mesi dell'anno rispetto agli uomini. Il 2 novembre, l'Equal Pay Day, il giorno dell'uguaglianza, della paga, dell'equità, la media europea vede gli stipendi orari femminili più bassi del 16,3%, in Italia si scende al 7,3%. È un contatore che misura di anno in anno gli scalini che dividono i due generi sul lavoro. Inoltre, le donne spendono più tempo in attività non retribuite, come la cura della casa, dei figli e degli anziani, tanto che il loro borsino è di 26 ore alla settimana contro le 9 ore degli uomini. Per le donne, inoltre, c'è molta probabilità di avere carriere a intermittenza, con impatto su assegni e schemi pensionistici. Silvia Costa, eurodeputata, membro supplementare della Commissione Diritti Donne e Uguaglianza di Genere, propone alcune soluzioni. È praticamente una intelligente modalità di far percepire proprio concretamente la differenza salariale che in media c'è in Europa, sul quale noi ci siamo espressi come Parlamento europeo nel 2012 e facciamo una risoluzione molto importante con ben 8 raccomandazioni alla Commissione, raccolta finora solo in parte, con una raccomandazione dell'anno scorso in cui la Commissione però chiede due cose importanti ai Paesi. La prima è di rendere più accessibile ai dipendenti da parte dei datori di lavoro le informazioni su qual è la situazione retributiva nel loro comparto e nella loro azienda o nella società, e secondo, perché ci sia un rapporto annuale che deve essere fatto dagli Stati membri, perché si arrivi a definire un sistema di classificazione del lavoro neutro rispetto al sesso. Perché dico questo? Perché la parità di cui si parla nella direttiva del 2006, che è l'ultima fatta su tutta questa materia, è una parità che riguarda non soltanto il salario, no? La parità retributiva, ma anche di fronte a lavori di pari valore o lavori cosiddetti equivalenti. Qual è il problema? Che le stime attuali e le statistiche sono molto inadeguate, perché non rendono né confrontabili i quadri nazionali né soprattutto analizzano bene quello che c'è fuori della busta paga, no? E per esempio in Italia devo dire che il 6,7% di divario la pone come uno dei paesi in cui c'è minore divario salariale fra uomini e donne. Però per esempio le donne sono tagliate fuori molto spesso dalle indennità, dalle bonus, accesso alla formazione durante il lavoro, la possibilità anche per minore tempo che spesso hanno, anche le possibilità di avere, a parte gli avanzamenti in carriera, ma anche il riconoscimento di loro qualità professionali, che vengono riconosciute meno in genere, sono discriminazioni indirette queste. È una disparità, diciamo, a macchia di leopardo, come sembra una provocazione il fatto che da oggi le donne europee vanno a lavorare gratis, mentre i loro mariti, amici, anche gli uomini, insomma, saranno regolarmente retribuiti fino al 31 dicembre. Basta questa iniziativa per sensibilizzare l'opinione degli europei, oltre alle leggi che ci ha elencato e le regole? No, assolutamente no. Noi abbiamo chiesto una modifica della direttiva del 2006 perché la riteniamo inadeguata, non tanto in quello che prevede come sanzioni e come obblighi, ma come analisi del fenomeno. Ci devono essere altre misure. Certo, ci sarebbe anche la necessità di studiare nuove forme, sì, anche se rispetto al 2006 c'è stato un piccolo miglioramento, visto che si era al 17,7%, comunque le donne guadagnano 84 centesimi ogni euro che viene incassato dagli uomini. Sì. Ci sono anche dei gap, diciamo, per settori. Faccio un esempio: la sanità, dove l'80% in Europa sono donne, complessivamente ha stipendi in generale minori di altri comparti. Le donne comunque, anche dove sono in maggioranza assoluta, a parità di lavoro hanno salari inferiori. Quindi bisogna mettere nero su bianco tutta la job description, cioè la descrizione del lavoro, e intervenire non solo sulla descrizione di quello che si deve fare, ma anche sull'organizzazione del lavoro. Sono perfettamente d'accordo, e la questione tempo, che per le donne è così importante, io credo che debba essere tutta riconsiderata, perché c'è anche una prestazione che non è necessariamente essere 8 ore sedute a un tavolino. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Non ho più altro da aggiungere su queste storie. Le questioni di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. Ecco il signor Tavecchio, presidente della FIGC. Questa era stata la sua prima memorabile gaffe a proposito di un giocatore nero. Poi aveva parlato delle donne, pensavamo fossero handicappate, invece giocano benissimo, aveva detto nel calcio. Poi ultimamente Dario Ricci su ebrei e gay, diciamo, non ha risparmiato praticamente nessuna categoria. Sì, insomma, direi che credo che intanto buonasera a tutti. Ulisse, il nostro amico che, di cui prima hai letto il messaggio, ha espresso un'opinione che personalmente condivido. Tavecchio è sicuramente un gaffer di prim'ordine. In questo caso mi sembra che sia un po' caduto in un trappolone. In un trappolone, perché queste due ultime gaffe sugli ebrei e sui piedi. Sì, no, nel senso che chiaramente non si entra neppure nel merito, no? Chiaramente sono due autogol clamorosi, tanto per rimanere in tema. È chiaro, personalmente mi interrogo anche sulle modalità di questa intervista, no? Un tema anche che per noi giornalisti è importante. Se di questa registrazione Tavecchio ero consapevole, perché è rimasta per 4 mesi nel cassetto del collega che ha realizzato questa intervista, per poi essere ceduta al sito del Corriere della Sera? Insomma, ci sono degli aspetti che andrebbero chiariti anche da quel punto di vista, per capire tutta la vicenda. Poi che Tavecchio in quel contesto, in cui forse voleva dire forse altro, si è riuscito appunto a fare due autogol clamorosi, quello non, cioè, quella è una sua specialità, che non si può negare, dei difensori di se stesso, ecco da diciamo varie parti così. Chiedono le dimissioni, ma la col presidente del CONI ha detto: però non possiamo commissariare la FIGC per le frasi di Tavecchio. Ma direi sì, per il commissariamento servono dei motivi tecnici significativi, appurati. L'iter non è particolarmente complesso, ma deve essere diverso. È chiaro, bisogna ricostruire l'intera vicenda, secondo me, perché altrimenti si rischia di esprimere giudizi su dei tagli di un'intervista che, tra l'altro, a detta del collega che l'ha realizzata, è lunga ben 40 minuti, quindi sarebbe opportuno capire tutto il contesto. Salvo restando, ricordiamo che questi due autogol rimangono e fanno parte di questa galleria delle gaffe. Il suo repertorio. Abbiamo ancora 20 secondi per dire del MotoGP. MotoGP, Valencia, gara decisiva, la finale. Diciamo così, oggi decisione importante, perché è stata annullata la conferenza stampa abituale del giovedì, quella che precede la gara e che vede coinvolti tutti i piloti, che invece della conferenza stampa sono convocati dalla federazione per discutere di quello che è avvenuto a Sepang. Insomma, la federazione vuol mettere in chiaro che non si può trasformare questo Gran Premio in una corrida, perché magari scalciare qualcuno a 300 km all'ora può essere molto pericoloso. Naturalmente. Grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Ci sentiamo alle 22.